Il Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti, cari radioascoltatori. Ebbene, io oggi vorrei fare un po' delle proiezioni in tutto il 2014, vorrei vedere quelle che sono le tendenze, che saranno le tendenze o che io ritengo che siano delle tendenze. Ecco, il pericolo è sempre che quando la tendenza diventa moda, quello che diventa pericoloso, perché vuol dire che a questo punto quando diventa moda i problemi possono essere molto, molto alti, nel senso che può scomparire nel giro di poco o può anche diventare una tendenza poi abitudinaria e quindi non è più una tendenza. Però quello che si intravede, voglio vedere quello che si intravede, e quello che si intravede è anche momenti del passato che ritornano, soprattutto in questo momento di crisi. La crisi riporta sempre a ripensare al passato e farci vedere sempre in maniera rosea quello che è già stato. Molte volte non è così. E a proposito di cibo, io credo che ci sia una vecchia tendenza che poi è continuata in molte città dell'Italia, in molti paesi dell'Italia, che è il cibo di strada. Quasi all'improvviso abbiamo riscoperto questo modo di alimentarci, e all'improvviso nascono ovunque anche, diciamo, locali che propinano cibo di strada, non più come un tempo appunto nella strada, ma che l'hanno portato all'interno, ma il prodotto che offrono è, diciamo, quello di un tempo rivisto. E allora io voglio cominciare questo giro di tendenze con Marco Bolasco. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Marco, ti devo presentare come cosa, perché ora tu hai anche un ultimo incarico importante, direttore editoriale della Giunti, quindi sicuramente intravedi, anche tu stai studiando le tendenze per poter produrre dei libri. E cosa ne pensi del cibo di strada? Sì, solo per la parte enogastronomica, sì, ovviamente. Cioè. Ma guarda, credo che sia una questione che poni molto interessante, perché il cibo di strada è una formula. Come correttamente sottolineato, il cibo di strada oggi non è più di strada, nel senso che non siamo abituati e non accettiamo forse neanche tanto il fatto di mangiare scomodi, no? Quindi il cibo di strada in realtà è una sorta di design, una sorta di modalità di proporre il cibo, spesso anche seduti o comunque in un luogo un po' più confortevole, ma un cibo veloce. Quindi il cibo di strada non è altro che la nostra consapevolezza che, pur con ritmi diciamo da fast food, lo dice uno di slow food, in realtà possiamo mangiare veloci, ma delle cose che ci appartengono di più, delle cose che sono in qualche modo legate alla nostra identità, alla nostra tradizione, perché la cucina regionale italiana è piena zeppa di proposte di questo tipo. E allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo che tanti stanno ripensando un mangiare intelligente, veloce, economico, e che possa addirittura portare alcuni degli elementi fondamentali del nuovo modo di mangiare, cioè attenzione alla salute, attenzione ai prodotti di qualità, attenzione all'artigianato, alla qualità dei prodotti fatti su piccola scala, anche dentro un panino, per esempio. E questo sicuramente su questo 2014, io penso almeno per i prossimi 3 anni, sarà uno dei temi dominanti, anche perché non ce lo dimentichiamo, siamo in piena crisi, tutti quanti noi però siamo abituati, diciamo, a vivere cercando di prendere il buono che questo mondo ci può dare, e quindi questo è un modo per coniugare una qualità a un basso prezzo, quindi per forza sarà centrale. Ecco, ma ci sono anche altri fenomeni che stanno ritornando fortissimamente, ad esempio la pasta madre. Fino a qualche tempo fa devo dire che la pasta madre veniva citata pochissimo, se andiamo a vedere appunto sia giornali, televisione o nei discorsi, ma anche nei discorsi tra addetti ai lavori. Poi all'improvviso, non so come, pasta madre, ora non si parla altro che di pasta madre, pane, panettone, insomma, la prima cosa che la gente si mette in bocca è pasta madre. Io ho sentito in molti panifici le persone chiedere: ma questo pane è fatto con la pasta madre? E allora io voglio chiedere a Davide Longoni, panificatore ormai notissimo a Milano, in giro per l'Italia. Buongiorno Davide. Buongiorno Davide a tutti gli ascoltatori. Ma ti voglio chiedere, ma scusa Davide, ma perché ora all'improvviso c'è questo boom della pasta madre? Secondo te come si spiega? Ma è una richiesta che parte, come dire, dal basso, un fenomeno che nelle case di alcuni italiani sono anni che si coltiva la pasta madre. È stata veramente una richiesta da parte dei consumatori che poi è esplosa e adesso tutti che la vogliono, soprattutto anche in casa, oltre che comprare pane con la pasta madre. Io ho richieste di corsi continui, ormai sono arrivato a più di 2000 persone che hanno fatto con me il corso di panificazione. Tra cui io. E devo dire che c'è questa voglia di fare, più che di comprare, di fare. E questo è forse la chiave del successo della pasta madre, perché è una cosa che uno vuole avere tra le mani, vuole coltivare, vuole fare pane, dolci con la pasta madre. E devo dire che io leggo anche i forum di gente che fa il pane in casa e sono informatissimi i consumatori, più forse di noi panificatori. Infatti io rubo anche le ricette e le idee dai... Ma questo è molto, è molto positivo, Davide, però io ho un po' un sospetto. Un po' il sospetto che, diciamo, rendo pubblico anche a Marco Bolasco. Non è che sia un po' una moda in questo momento? E ci sono... Poi la cosa è diventata una moda, quello è sicuro. Ecco... adesso sembra quasi che tutto questa voglia di sano, naturale, chilometro zero, la pasta madre rientra in queste, in questi discorsi. La moda passerà sicuramente, tra qualche anno si farà sgonfiare un po' il fenomeno, però sono sicuro che una base di estimatori, di cultori ormai c'è, è rimasta e si è aperto un mercato interessante anche tra gli artigiani. Marco, tu cosa ne pensi? Ma sicuramente siamo in un momento, anche solo come parole, no? Come terminologia, che spesso non viene neanche così colta fino in fondo, e vorrei sapere quanti sono quelli che sanno veramente di che cosa stiamo parlando. Quindi ci sono delle tendenze. Detto questo, non è però pensabile che non ci sia anche una cultura diversa. Quello che tu hai fatto in questi anni, quello che tanti di noi hanno fatto per cercare soprattutto di diffondere consapevolezza e coscienza sulla qualità dei prodotti, direi che ha portato dei frutti, quindi un pochino possiamo essere più sereni. Il mondo, soprattutto quello italiano, ha finalmente scoperto di avere dei valori anche in gastronomia, tra cui c'è il lievito madre, c'è la lievitazione naturale, quindi finalmente si pone qualche domanda e cerca di darsi delle risposte mangiando delle cose migliori. Beh, io credo che Davide Longoni su questo sia, per quanto riguarda la pasta madre e la qualità del pane, sia uno dei personaggi da ringraziare, perché in questi ultimi anni veramente ha fatto un ottimo lavoro, non solo a parole. Ecco, per lui parlava prima del fare, ecco, ci sono molti probabilmente che si riempiono la bocca, anche produttori di lievito madre, poi dopo se andiamo a vedere dietro, bah, ho molti dubbi. Lui invece ha fatto, e credo che questo sia un processo che va avanti proprio per coloro che fanno, soprattutto rispetto a coloro che parlano, e su questo credo che dovrebbe fare molto di più la televisione, e che non fa, secondo me. Produce tanta diciamo gastronomia, cucina, però secondo me non fa educazione in questo senso. Grazie a Marco Bolasco. Il gastronauta. Oh, qua davanti una sfera di cristallo dove sto leggendo quelle che saranno le tendenze in campo enogastronomico nel 2014. Le tendenze sono molto pericolose, perché quando rischiano di diventare moda è la fine. L'importante è che rimangano nella, diciamo, nella realtà, che vadano in un certo senso a intaccare, a cambiare, che siano dei cambiamenti o anche, perché no, dei ritorni indietro. Bene, la cucina è un chiaro esempio di varie tendenze che si intrecciano. Alcune muoiono, altre rimangono. Sicuramente tutte lasciano una traccia. E io credo che il 2014, dopo, diciamo, i movimenti spagnoli, i movimenti del Nord Europa, saranno segnati dal Sud America, dalla cucina sudamericana, in particolare da quella peruviana. E allora io chiedo a un grande chef, che però è un attento osservatore, che gira, si documenta e devo dire che carpisce appunto le tendenze, che è Massimo Bottura, cosa ne pensa? Sarà Sud America la prossima ondata? Buongiorno Massimo. Ciao Davide, ciao a tutti. Sì, hai detto bene. Dopo la fusion degli anni 90, che non ha lasciato praticamente niente, ha lasciato solo dei sushi bar gestiti da cinesi, e la tendenza spagnola, che invece ha aiutato tutti noi chef a liberare la nostra mente, il nostro modo di esprimere, e il Nord Europa, che ha posto l'accento su ciò che è la natura, ciò che è il raw, la cosa cruda, no? La masticazione cruda. Tanti governi sudamericani, Latin America, hanno capito che l'agroalimentare va di pari passo col turismo e va appoggiato. Il Perù è uno di questi, perché è trascinato da un grande leader che è Gastón Acurio. Ma a fianco di Gastón ci sono altri chef. Non sono tanti, ma c'è gente come Virgilio Martinez, che è un cuoco straordinario, bravissimo, giovane, o un cileno come Rodolfo Guzman, Enrique Olvera, il messicano, Alex Atala, il brasiliano, così come Mocotò, come tanti altri, sì. La cosa fondamentale è che il governo investe tantissimo, tutti questi governi investono tantissimo. Il problema, secondo me, perché io sono stato invitato a una tavola rotonda proprio con tutti questi cuochi per cercare di fare sistema su Sud America, quindi mi considerano uno di loro, è che si chiudono troppo e diventino troppo nazionalisti. Questo è sbagliatissimo, e gliel'ho detto. Perché loro sono diventati quello che sono attraverso la contaminazione, sì, a volte anche selvaggia, però, e quindi se si cominciano a chiudere lentamente moriranno, perciò secondo me devono continuare a rimanere quello che sono, a salvaguardare, copiando il nostro paese. Perché tutti parlano male dell'Italia, ma quando vai in giro per il mondo, cioè, l'Italia è sempre l'Italia, e quindi copiando il nostro paese, cercando di creare una rete e una forma di valorizzazione delle loro materie prime. Capisco Alex Atala, che parla costantemente dell'Amazzonia, ma che cos'è il prodotto dell'Amazzonia se non c'è un sistema che salvaguardia questo tipo di prodotto, che lo si forma anche, che aiuta i piccoli allevatori, i piccoli contadini. Gastón Acurio ha capito questo, ed è per quello che si parla di Perù. Attraverso il governo, lui ha una grande credibilità in Perù, e attraverso il governo ha ottenuto stanziamenti per i campesinos che in altura prima lavoravano foglie di coca, e adesso hanno trasformato questi campi in piantagioni di caffè e di cioccolato. Quindi cosa è successo? È successo che 3 anni fa uno di questi agricoltori ha vinto il premio come miglior caffè del mondo organico. E questo è stata l'esplosione assoluta, perché ha avuto una risonanza nazionale, incredibile, certo. E quindi ha trainato tanti altri, ha spinto tanti altri a fare questa scelta. Ecco, questo è il Perù, e tutto il Sud America vede il Perù come il paese leader. Io credo che il Messico sia meglio del Perù, penso, perché ha una tradizione molto più profonda, certo, e una cucina molto più importante, lavorata, certo. A volte fin troppo, però quando comincia a vedere, a imparare come la cura con la quale preparano i moles, che sono queste salse incredibili che accompagnano la cacciadone, il maiale, i pesci, eccetera, tu capisci quanto è importante la cucina messicana, perché ha ottenuto i risultati che ho ottenuto. Rimani con noi, perché ora nella mia sfera di cristallo vedo le polpette, vedo un fiorire di luoghi locali che offrono polpette, vedo la polpetta tornare protagonista della tavola, e non lo so, secondo me, se sia una tendenza, se sia un ritorno al passato, ma di questo ne voglio parlare con una giornalista che tra l'altro è autrice di un libro assieme a Roversi che si chiama Una polpetta ci salverà, Anna Scafuri. Buongiorno Anna. Buongiorno Davide, buongiorno ai radioascoltatori. Ma il 2014 sarà l'anno della polpetta? E io penso proprio di sì, io e Giancarlo Doversi lo pensiamo proprio, perché questo piatto così tradizionale, così legato alla storia delle famiglie, al ricordo personale di ognuno di noi, è come secondo me una sorta di fiume carsico, cioè scorre sotto la pelle, no, del nostro vissuto gastronomico attraversato, come sappiamo, i secoli, addirittura i millenni, e poi emerge quando? Nei momenti di difficoltà economica, come quello che stiamo attualmente vivendo, perché è il classico piatto del recupero, quindi un piatto che ci insegna innanzitutto a rispettare il cibo, quindi il primo modo per non rispettare il cibo è non sprecarlo. Ci aiuta anche un po' a far quadrare i nostri bilanci familiari, che in questo momento sono in grave difficoltà, e ci riporta al contatto veramente con la parte più intima dei nostri ricordi e dei nostri affetti. Ma io l'altro giorno così scartabellavo un vecchio libro che ho trovato in una bancherella, che sono le ricette di Petronilla, che è stata la prima giornalista di ricette sulla Domenica del Corriere negli anni 30, ed è veramente incredibile sfogliarla per capire appunto cosa sta succedendo, che tanti tanti piatti veramente stanno ritornando. Si vede che la crisi riporta un po' le stesse cose. Cosa ne pensi, Massimo? Ciao Anna, intanto volevo salutarla Anna, e complimenti per il libro, così come quello di Bolasco, mi è piaciuto tantissimo anche il suo. Io credo che sia fondamentale ripartire proprio da questo. Io ho creato un menù che si chiama Vieni in Italia con me proprio per questo, per ripartire da ciò che è stata l'Italia, dall'umiltà della gente che con niente, briciole di pane raccolte sulla tavola, per tutta la settimana, il sabato preparavi con un brodo di crosta di parmigiano i passatelli, perché non avevi altro, è l'ingenua ingegnosità, certo. Ma però è l'ingegnosità dei nostri contadini, e credo che sia proprio da lì che dobbiamo ripartire, dalla nostra terra, dai contadini che hanno sempre dato, sono sempre stata la spina dorsale italiana. Per questo che io sono così vicino alla scuola di agricoltura di Castelfranco Emilia, perché se non salvaguardiamo queste realtà straordinarie che hanno dato tanto all'Italia, perdiamo un valore, un patrimonio che è assolutamente non ha uguali nel mondo. Anna, però c'è un rischio, lo sto vedendo, già a Milano sono nati dei locali alla moda di polpette, e sì, questo è pericoloso. Sì, perché in effetti è vero, secondo me è in certo senso la prova che questo piatto è proprio nell'area del tempo gastronomico, cioè è il momento della polpetta. Detto così sembra anche un po' strano, però credo che veramente sia così. Infatti a Bologna, a Milano, ci sono già dei locali, delle polpetterie cosiddette, che peraltro mi dicono che fanno il pieno tutte le sere. Perché? Perché si vuole un tipo di cibo così, cioè che unisce le persone, che sia easy, che sia facile da consumare, che abbia anche una enorme varietà, perché sappiamo la polpetta essere proprio il fregoli della cucina, cioè certo. Il piatto dalle mille forme, dai mille colori, si può fare polpette praticamente di tutto e copre l'intero menù, dal finger food che fa certo. L'antipasto fino al dessert. Si vuole proprio questo in questo momento. Certo, come tu dicevi, ogni tendenza poi può diventare moda e quindi poi può degenerare. Purtroppo questo lo vediamo non solo con le polpette, ma si vede con tutto. Bene, sì. Grazie ad Anna Scafuri, lo ripeto, una polpetta ci salverà. Grazie a voi. E a Massimo grazie Bottura. Ciao Massimo, a ciao, presto. Ciao Davide, ciao a tutti. Il gastronauta. Continuiamo questo viaggio con la mia sfera di cristallo per vedere un 2014, soprattutto le tendenze che stanno emergendo o sono già emerse, e sicuramente quando sono tendenze si possono consolidare oppure possono diventare moda, e lì è il grande guaio. Ma io vorrei cominciare a parlare di una tendenza che ormai è qualcosa di più una tendenza, però sta sempre più crescendo, ed è la birra artigianale, e quindi non posso che parlare con, diciamo, quello che è l'inventore di questo filone, perché ha scritto anche un libro in proposito che lo dice molto apertamente. Buongiorno Teo Musso. Buongiorno, ciao Davide e buongiorno a tutti. Teo, a te faccio questa domanda. Diciamo che la tendenza della birra artigianale in questi anni è veramente cresciuta, sta raggiungendo dei livelli molto importanti. Come ho detto prima, il problema della tendenza è che o si consolida oppure diventa moda e finisce. E credo che la birra artigianale sia in questo momento, cioè diciamo a una strada, a un bivio. O si consoliderà, oppure diciamo le 400, le 500 birrerie artigianali cominceranno a perdere, sì, a perdersi un po' per strada. Ma guarda, allora, diciamo che questa hai centrato perfettamente, no? Questo dipende molto da quanto il consumatore si avvicina a questo mondo, non semplicemente come una tendenza, ma con un approccio di voglia di accrescersi culturalmente proprio sul prodotto, no? E diciamo che speriamo che questa curiosità che si è sviluppata negli ultimi 3 anni, che ha portato il movimento a oggi, tu dicevi, in realtà sono quasi 600 le aziende che producono birra artigianale in Italia, che occupano oltre 1000 persone, no, direttamente, quindi anche un settore che in un momento di difficoltà come sta passando l'Italia oggi, no, sicuramente ha anche un suo significato sotto l'aspetto proprio del lavoro, no? E sicuramente quello che conta è, e in questo momento si è innescata questa curiosità in modo forte, no, che non sia una semplice curiosità da tendenza e di conseguenza da moda, ma la voglia di valorizzare e di appassionarsi veramente a un prodotto di cui l'Italia non è mai stata proprio grande leader, no? Nel mondo, certo. Nel mondo. In questo momento invece siamo un grande esempio, no? Siamo un grande esempio di diversificazione di prodotto, siamo un grande esempio di legame col territorio, cioè con l'utilizzo di materie prime particolari, di qualità, e quindi la possibilità di far sostenere, cioè di portare avanti queste aziende e questo mondo esiste, no? Ecco, rimani con noi, perché io credo che lo stesso bivio diventerà, diciamo, un qualcosa di solido, oppure magari diventerà moda, e quindi con diciamo tutte le problematiche di quando un qualcosa diventa moda, che è sempre a rischio poi di scomparire. E la pizza che viene chiamata gourmet, io la chiamo pizza d'autore perché questa parola pizza gourmet non mi piace proprio, e io lo voglio chiedere a uno dei personaggi leader di questo movimento che hanno portato, diciamo, la pizza in altra maniera, ed è il Renato Bosco della pizzeria Sapore. Buongiorno Renato. Buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti. Ecco, come spieghi, cioè come spieghi che questo successo di queste pizze, diciamo che hanno, come posso dire, un qualcosa di diverso dalla pizza tradizionale? Beh, mantengono la stessa cosa ovviamente nell'impasto e in tutta una serie di procedimenti, però sono, diciamo, condite in maniera completamente diversa secondo la fantasia anche del pizzaiolo. Ecco, continuerà, diciamo, questo filone, si rafforzerà, oppure vedi dei rischi? No, guarda Davide, partiamo dal presupposto che questo è stato l'inizio proprio di questo processo. Sappiamo benissimo che la pizza contemporanea, con il gusto e soprattutto con materie prime di qualità, e mi posso legare anche a quello che ha detto Matteo, l'italianità, la tradizione e tutto quello che comunque il pizzaiolo negli ultimi anni sta ricercando, possiamo ottenere una pizza di altissima digeribilità con farina macinata a pietra e tutti i processi che comunque aiutano a far conoscere questa italianità e esportarla in tutto il mondo. Direi che la pizza è all'inizio e nei prossimi anni avrà veramente un'esplosione, soprattutto nella versione, diciamo così, gourmet, che a me non piace tantissimo perché mi sembra non proprio... Anche a me, diciamo così, anche a me, sì, anche a me, però, sinceramente. Diciamo che il prodotto di qualità esaltato da un impasto, soprattutto se fatto con lievito madre, e tu ne sai qualcosa, è veramente... sarà il futuro, ci sarà tanto futuro per questa pizza. Senti Teo, volevo chiederti, diciamo, questo crescere della birra artigianale, della qualità, lo vedi contemporaneo a questo movimento che è successo sulla pizza, anche se io non sono così d'accordo da abbinare sempre in maniera, come posso dire, matematica, pizza e birra, però vedo due movimenti abbastanza analoghi su questo. Assolutamente sì, ma cioè sono d'accordo anche con te sul fatto che il legame pizza-birra in realtà è anche un legame discutibile, no? Però sicuramente sono nati questi due movimenti in un momento in cui c'è voglia di qualità, c'è voglia di cose nuove. La birra artigianale, io penso che il successo vero della birra artigianale sia stato dato dal fatto che per la prima volta il mondo della birra aveva dei profumi, no? E quindi la stessa cosa è l'estrema qualità delle materie prime messe oltre che nel realizzare l'impasto della pizza, cioè nel condire, se vogliamo, no, la pizza. E il legame tra questi due mondi è assolutamente un'esigenza, secondo me, da parte del consumatore di mangiare e di bere meno, ma di mangiare e di bere cose più alte di qualità, no? Renato, volevo chiederti la reazione del cliente, del consumatore, di fronte, diciamo, a un modo di porre la pizza sinceramente diverso, diciamo anche nell'aspetto esteriore, come nella forma, come viene presentato. Qual è la reazione? Guarda Davide, inizialmente diciamo è anche di diffidenza, cioè vedere prodotti di altissima qualità, senza citarne uno in particolare, ma diciamo così, dai salumi, formaggi, abbinamenti, diciamo, particolari, c'è un po' di scetticismo, cioè come può un contenitore come la pizza associare quello che è un prodotto di altissima qualità, soprattutto che rappresenta l'italianità. C'è un po' di scetticismo, poi quando si avvicinano, e qui posso collegarmi anche a quello che diceva Teo, la qualità, il gusto viene premiato perché poche esperienze ma fatte bene, anche la pizzeria, la sua dignità, come sta prendendo negli ultimi anni forma e consapevolezza. Ecco, ci sono, devo dire, altri grandi movimenti che si stanno presentando diciamo sulla mia sfera di cristallo, perché ad esempio c'è tutto un movimento salutistico, diciamo, però va anche oltre, ed è i prodotti gluten free, quindi ci sono è un po' difficile avere una pizza gluten free, vero Renato? Insomma, non è facile. La difficoltà sta proprio nella lievitazione, diciamo che normalmente utilizzando farine di grano tenero, grano duro, noi abbiamo la capacità, diciamo, di sviluppare un prodotto che, non avendo glutine all'interno, ha veramente grande difficoltà. Quest'anno noi, diciamo, come Movimento Università della Pizza, ci siamo anche specializzati, un nostro docente ha portato avanti con molto successo la preparazione della pizza senza glutine. Diciamo che è un mondo difficile, però bisogna avere tanta attenzione, perché comunque c'è necessità di creare prodotti senza glutine, e la gluten free sicuramente sarà veramente un nuovo traguardo. Certo. Da tenere sotto, diciamo, controllo, e comunque molto rispetto per chi, insomma, ha questa intolleranza. Mentre l'altro giorno ho letto che c'è stata addirittura una degustazione di birre gluten free, vero Teo? Sì, beh, assolutamente, è un percorso da prendere in considerazione. Noi nel mondo della birra a oggi i prodotti gluten free sono prevalentemente prodotti industriali. Noi stiamo lavorando, guarda, proprio nei prossimi 6 mesi mi sono dato come obiettivo di chiudere un lavoro che ho iniziato un po' di tempo, no? Sul fatto di fare la nazionale, no? La nostra birra nazionale, anche in versione gluten free. Perché in realtà il malto d'orzo non ha una quantità di glutine così elevato, no? E attraverso una serie di accorgimenti si può arrivare sotto la soglia. Quindi diciamo che su questo lato, appunto, della birra, molti che soffrono di celiachia o di intolleranza, magari anche leggera al glutine, possono stare tranquilli. Devo dire però così un aspetto che secondo me viene molto trascurato in questo periodo, perché, diciamo, come dicevo, il gluten free non è una tendenza, cioè è qualcosa di reale che sta emergendo. Il problema è che molti consumatori, purtroppo, e qui c'è sempre un fatto di poca informazione, e consumano prodotti gluten free anche se non hanno intolleranza o non soffrono di celiachia, perché hanno letto che negli Stati Uniti ci sono alcuni attori molto importanti che hanno deciso di alimentarsi solo con prodotti gluten free non avendo intolleranze particolari. E questo è un errore clamoroso, perché basta parlare con qualsiasi esperto, con qualsiasi tecnologo, che spiega che laddove manca il glutine bisogna appunto apportare altri elementi, e sono soprattutto grassi. Quindi sì, farà leggermente bene, ma fa ingrassare. E questo secondo me è un aspetto veramente di informazione, che credo che Renato Bosco e Teo Musso condividono con me, questo fatto della cattiva informazione in questo paese. Guarda, da parte mia assolutamente. Poi il rischio, io avendo anche 11 ristoranti, mi rendo conto di che il rischio è anche quello di degenerare in questa direzione, no? Con tutto rispetto, cosciente anche del fatto che effettivamente per alcuni è una vera e propria malattia. Certo, come? Però questa degenerazione ce la ritroviamo, guarda, dentro il mondo della ristorazione in questo momento quotidianamente, no? Ed è proprio un'esasperazione fuori luogo, no? Certo. Tutti che si avvicinano come se la moda in questo momento fosse quella di essere vegani o mangiare gluten free, no? C'è proprio un'esasperazione, certo, veramente, perché non commento fino in fondo. Bene così. Grazie a Teo Musso e a Renato Bosco, grazie ciao, a voi. Davide, grazie ciao, a te, ciao, grazie ciao. A tutti quanti. Il gastronauta. Cosa vedo nella mia sfera di cristallo? Faccio il mago come previsore di quello che succederà nell'enogastronomia, e vedo anche un fenomeno che è vecchio, molto vecchio, però che sta ritornando. Basta guardarsi in giro nelle città e si vedono nascere nuovi locali dove magari accanto al ristorante, accanto alla pizzeria, accanto alla paninoteca, e nasce il locale per i cocktail. Quindi c'è sicuramente un esperto di cocktail che li prepara. Quindi il cocktail sta tornando e sta diventando veramente un fenomeno emergente. E allora chi meglio di Stefano Ninčević del Bar Giornale potrà parlarmi se questo è un fenomeno veramente in grande emersione, e invece se non lo è, la mia previsione è sbagliata. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Confermo tutto quello che hai detto, anzi di più. E poi la cosa interessante che riguarda soprattutto le nuove generazioni, che vanno a recuperare ricette storiche, ricette addirittura dell'Ottocento, quando tutto fu scritto in realtà. Prima ancora di parlare di cocktail, nell'Ottocento si parlava di pancia, e il pancia è la base sulla quale sono stati costruiti tutti questi cocktail che oggi ritroviamo in locali di vario genere. Per esempio stanno tornando sulla cresta dell'onda i locali in stile proibizionista, quindi locali dove entri soltanto con una parola d'ordine, dove ci sono camerieri, barman vestiti con abiti d'epoca, dove ci sono bicchieri che appunto riprendono tutte le forme dei primi del Novecento, e dove soprattutto la ricerca è focalizzata su quello che sono le ricette storiche a base di vermouth, di gin, di whisky, di brandy. Insomma, le ricette con cui tutto è iniziato. Come dicevo, la cosa più interessante è che non è che è un fenomeno che riguarda soprattutto le nuove generazioni, che si sono avvicinate grazie alla lettura di libri specifici ristampati negli ultimi anni a questo affascinante mondo, a questa epoca d'oro. Stefano, ma c'è qualche cocktail come ha dominato per anni il Martini, il Negroni? C'è qualcosa che veramente sta prendendo piede e sta diventando un po' leader appunto del campo dei cocktail? Ma io quello che ho potuto monitorare è il ritorno dei drink esotici, quei drink che erano nati in America tra gli anni 30 e 40 e che i marinai portavano in qualche modo la loro esperienza alla Hawaii. Quindi questi cocktail definirei in technicolor, con tanto di ombrellino, molti ingredienti, soprattutto a base di rum. Faccio un esempio in modo che tutti possano capire: il piña colada, per modo di dire, o il mai tai, insomma. A fianco di questi stanno prendendo piede le rivisitazioni sui classici che già raccontavi prima, tipo il Negroni o lo Spritz, che vengono fatte in mille varianti. Ci sono locali dove abbiamo una carta con, per esempio, 10 tipi o anche addirittura 50 tipi diversi di Spritz fatti con tutto e di più. Insomma, cioè, è molto interessante come stanno lavorando i nostri barman sulla reinterpretazione dei classici, e quindi come stanno riportando alla luce cose che erano andate un po' dimenticate. Quindi è una tendenza 2014, c'è cioè il grande ritorno dei cocktail e dei locali di cocktail, questo me lo confermi? Questo è sicuramente, e io ho veramente avuto possibilità di vedere che sicuramente questo settore sta crescendo e stanno sicuramente le forme ibride, dove ci sarà il ristorante con il cocktail bar, saranno sempre più diffuse. Uno dei locali a cui abbiamo assegnato il premio Reca 24 Innovazione dell'anno come migliore startup quest'anno, non è per fare pubblicità, ma perché se lo meritano, eccetera, un locale che si chiama Dry Cocktail and Pizza, dove propongono appunto di Milano, dove propongono appunto una selezione di cocktail e la pizza a parte, certo. Sì, dove c'è sempre comunque qualità. Esatto. Bene, grazie a Stefano Ninčević del Bar Giornale. Ma visto, guardiamo ora nella mia sfera di cristallo per il 2014, cosa vediamo nel mondo del vino. Allora io vedrò una cosa che farà sicuramente discutere, ma io penso di avere con me una spalla abbastanza forte. Buongiorno a Luca Gardini. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Allora Luca, io nella mia sfera di cristallo vedo che il 2014 sì, sarà segnato da grandissimi vini, per carità, quelli ci sono sempre, sarà segnato da aree emergenti, territori emergenti, però io vedo anche una grande crescita dell'interesse per il vino sfuso. Cosa ne pensi, Luca? Sicuramente le tendenze, la tua sfera vedono giusto, nel senso che i grandi vini, i grandi brand, le grandi marche, il ritorno all'Ambrusco, al Gottorno, ai vari vini che sta parlando in questi ultimi anni, sarà sempre più presente e continuano ad esserci. Però secondo me, oltre anche solo a parlare di vini best price o low cost o accessibili, se anche vuoi, c'è anche un ritorno un po' a quello che è la tradizione, sì, il vino sfuso inteso nel vino che si può andare nella cantina e si porta a casa con col proprio bottiglione, la propria damigiana. Diciamo, il vino prima di essere messo in bottiglia tutto è sfuso, quindi non è che non ci può essere qualità. A me piacerebbe un giorno vedere qualche grande azienda che mette a disposizione di un forum innovativo, bene, facciamo un grande locale dove venite qua a bere il vino in damigiana dei grandi produttori, che non perché in damigiana non può essere di qualità, capito Davide? Ecco, ma a parte questo che vede la mia sfera di cristallo, Luca Gardini cosa vede? Quali sono i territori, secondo te, che nel 2014, magari territori che fino ad oggi non erano conosciutissimi, che hanno potenzialità per poter, diciamo, emergere? Diciamo, negli ultimi anni si è sempre parlato tantissimo dell'Abruzzo e delle Marche, sicuramente territori che hanno ancora tanto da dare. Sicuramente la Campania, con la parte di vini bianchi, ci darà sempre di più delle grandi situazioni. Non dimentichiamoci, io vedo molto bene anche l'Aglianico del Vulture, quelle zone lì, la Puglia ha un gran potenziale, secondo me ancora oggi inespresso e mal comunicato, però la Puglia, territorio, cibo, location, mare, tra tante cose. Ma io ti devo aggiungere una regione, perché sono proprio tornato da poco da un viaggio, da un giro in Calabria. E devo dire che conoscevo ben poco della Calabria, al di là del Ciro, diciamo, di un produttore molto conosciuto come Librandi. Eppure ho scoperto moltissimi nuovi emergenti produttori con la base Magliocco che stanno facendo delle grandissime cose. Sicuramente ancora magari è l'inizio di un cammino. Può darsi che questo cammino si interrompa, però ho visto grandissime possibilità anche in Calabria, e quindi un'altra regione del sud, secondo me, che sta crescendo. No, ma la Calabria, se tu ti ricordi, abbiamo fatto anche un evento insieme per la regione, certo, della Calabria, ti ricordi? Quindi penso che anch'io condivido, diciamo, purtroppo conoscere tutto, andare dappertutto, oggi anche visto i tempi è ancora più difficile, però non dimentichiamoci che l'Italia è la prima nazione per cucine regionali e vitigni regionali, quindi ha un panorama enologico, enogastronomico unico al mondo. L'altro giorno leggevo su Forbes che come gastronomia e vini l'Emilia Romagna è stata classificata a primo livello mondiale, quindi vuol dire che l'Italia ha tanto da dare e siamo noi a volte che andiamo a cercare troppe volte cose all'estero senza vedere quello che abbiamo noi vicino, che è veramente grande e unico. Ecco, dammi velocissimamente tre nomi di produttori emergenti. Se voglio prendere la Puglia, questo primitivo del Gioia del Colle che veramente unisce quello che è personalità e territorio della Puglia. Poi abbiamo, posso dirti, Oppi da Minea, questa azienda della Campania che produce un greco, un fiano veramente interessante nella zona del Benevento, quindi cambiando un po' da quello che è la zona del Veneto. Se vogliamo, posso dirti velocissimamente, mi piace tantissimo nelle Marche, Santa Barbara sta lavorando molto bene. Anche Antonucci, insomma, il buon Antonucci. Sì, Antonucci sta facendo delle belle cose, gli ultimi anni sempre di più. Bene, grazie, perché si sente sempre peggio. Grazie a Luca Gardini. Bene, abbiamo quasi concluso questo giro, anzi l'abbiamo concluso. Una sola annotazione devo fare. Purtroppo tra le tendenze emergenti ne avevo messa una molto importante, secondo me, perché molte volte mi accusano di non parlare mai di cucina naturale, di cucina vegetariana. Avevo messo appunto tra quello che emergerà nel 2014 questo tipo di cucina, e avevo chiamato Pietro Lehmann del Gioia di Milano, che è sicuramente, come posso dire, il leader di questo movimento, il più conosciuto, che sta anche organizzando un convegno internazionale su questo. Purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto con lui e la segreteria rispondeva no, non ci sono. Quindi bene, io ringrazio tutti i partecipanti. Ringrazio Paolo e Danita e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un buon weekend da Davide Paolini.